Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Io assumo un impegno, qualunque sia l'esito del referendum, io lavorerò perché il PD resti unito. Io non esco dal PD neanche con le cannonate. Avete capito, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, qui sono un po' ai ferri corti da diverso tempo all'interno del PD. Questo è Roberto Speranza, leader all'interno del Partito Democratico dell'ala di sinistra riformista. Vi ricordate che qualche settimana fa Bersani aveva detto: per farmi uscire dal PD ci vuole esercito. Quindi diciamo i toni si alzano sempre di più. Il PD non è mai stato spaccato come adesso, nonostante la Leopolda che c'è stata, anzi forse proprio per la Leopolda ci sono stati diciamo dissapori che sono stati esplicitati anche più duramente. Ma non parleremo di politica italiana stasera, per un po' ci riposiamo, parleremo invece soprattutto di politica americana, perché siamo a poche ore dall'inizio delle votazioni, anzi diversi milioni di americani hanno già votato in modo anticipato. Poi cercheremo anche di capire perché, vi dicevo, per le presidenziali americane, visto che tra un po' di ore sapremo chi sarà il 45esimo presidente degli Stati Uniti, Hillary Clinton o Donald Trump. E domani vi ricordo che ci sarà una diretta non stop dalle 21, quindi tre ore di speciale Effetto Notte, e poi proseguirà qui a Radio 24 fino a che appunto non si avrà questo fatidico nome. Quindi ne parleremo stasera e magari cercheremo anche di capire come funziona questo complesso sistema elettorale americano. Altre naturalmente le notizie, perché torneremo anche sul terremoto, visto che c'è stata fra l'altro una scossa macerata un'ora esatta fa di magnitudo 4. I sindaci dicono: purtroppo siamo abituati, però siamo sempre vigili. E c'è stato tra l'altro oggi l'appello dei sindaci del cratere, che hanno detto: non ci abbandonate. Ma cominciamo allora tra pochissimo con il riassunto della giornata, i titoli più importanti. Per interagire con Effetto Notte, lo sapete, c'è sempre la pagina Facebook del programma di Effetto Notte, oppure il numero per WhatsApp ed SMS, che è 349-238-6666. Le tensioni tra Unione Europea e Italia. Juncker avverte Renzi: l'Italia attacca l'Unione Europea, ma a torto, e questo non produrrà i risultati previsti. La replica di Renzi: le regole non possono andare contro la stabilità delle scuole dei nostri figli. Presidenziali americane alla vigilia delle elezioni, Hillary Clinton avanti nei sondaggi, ma la quota dei 270 grandi elettori è ancora lontana. Politica italiana: dopo la Leopolda prosegue lo scontro nel PD. Renzi alla minoranza dice: io non caccio nessuno. Bersani sottolinea: gravissimo dividere. E Speranza chiude all'intesa sull'Italicum. Iraq: offensiva dei curdi a nord-est di Mosul contro l'ISIS. Ad Amman a Lille le forze governative hanno trovato una fossa comune con circa 100 cadaveri decapitati. I sindaci del terremoto alla Camera: non ci abbandonate. Il loro appello, rassicurazioni da Boldrini e Alfano: non lasceremo sole le persone colpite. E stasera scossa di magnitudo 4 in zona Macerata. Polemica dopo il maltempo a Roma, botta e risposta tra Galletti e il Campidoglio. Colpa della mancata manutenzione della città, accusa il ministro. È vero, da 20 anni, replica la giunta Raggi. Coppie separate, animali domestici: in caso di separazione, affidamento condiviso del cane come per i figli minori, lo ha stabilito il Tribunale di Roma. Partiamo quindi da queste nuove tensioni tra Unione Europea e governo italiano, con il botta e risposta fra il Presidente della Commissione Europea Juncker e il Presidente del Consiglio italiano Renzi sui conti italiani e la manovra. Manovra oggi oggetto tra l'altro di nuove audizioni alla Camera. Sale di tono lo scontro a distanza tra Italia e Commissione Europea in merito alla manovra. Accantonata la tregua post-sisma, il presidente della Commissione Juncker riaccende la polemica contro Roma, che ricorda molto da vicino lo scontro infuriato inizio anno e risoltosi con un incontro chiarificatore Juncker-Renzi. L'Italia non cessa di attaccarci a torto e ciò crea risultati diversi da quelli attesi. Così Juncker ha commentato le polemiche sulla legge di bilancio e soprattutto le ultime uscite del Premier. Juncker non va per il sottile: l'Italia non può più dire che le politiche di austerità sono proseguite con questa commissione come avveniva in precedenza. Da lì l'affondo, i costi aggiuntivi per migranti e terremoto valgono lo 0,1% del PIL. Roma aveva promesso di avere un deficit dell'1,7 nel 2017, mentre adesso ne propone uno maggiore di 7 decimali. La domanda a quel punto è conseguenziale, anche se Juncker si ferma a un passo dall'esplicitarla: che fine hanno fatto gli altri 6 decimali? Per cosa saranno spesi? Più sfumate nella forma ma non dissimili nella sostanza le dichiarazioni del commissario alle affari economici Moscovici: anche se prendiamo in considerazione tutta la flessibilità, ci sono regole che vanno rispettate da tutti, ha detto puntando il dito in direzione di Roma. Renzi rimanda le accuse al mittente: non facciamo polemica, non guardiamo in faccia nessuno, perché una cosa è il rispetto delle regole, altro è che queste regole possono andare contro la stabilità delle scuole dei nostri figli. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È di fatto un via libera a quello che la Banca d'Italia riserva alla manovra. Il provvedimento è espansivo e risponde a temi chiave, spiega in Commissione Bilancio il vice direttore generale Signorini. Realistici per via nazionale anche gli obiettivi di crescita. Il governo prevede per il 2017 una crescita del PIL pari all'1%. Questo valore è superiore alle stime dei principali previsori oggi disponibili, che variano tra 0,5 e 0,9, ma non è irraggiungibile. Bene le misure fiscali per famiglie ed imprese, dicono Agenzia delle Entrate di Istat. Quanto alla crescita, secondo l'Istituto di Statistica, vi sono segnali di espansione per il terzo trimestre dopo le difficoltà registrate nei tre mesi precedenti. Faro acceso invece dalla Corte dei Conti sulle coperture, dubbi dei magistrati contabili a partire dal gettito previsto dalla lotta all'evasione fiscale, così il presidente Martucci. La Corte esprime quindi l'avviso che il permanere di vincoli stringenti per la finanza pubblica consigli di guardare alla programmazione per il prossimo triennio con particolare attenzione e cautela. Critica la manovra dall'Ufficio parlamentare di bilancio, che parla di misure frammentarie e di mancanza di un disegno organico. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Quindi prima abbiamo sentito le parole di Renzi sull'Europa. Renzi è tornato anche però sulle questioni interne al PD, più diviso che mai. Come dicevamo, noi non cacciamo nessuno, dice Renzi. Un muro contro muro che non si abbatte, anzi che la Leopolda ha acuito ancora di più dentro al PD. Per il premier Matteo Renzi il fronte del no tenta la spallata al governo, la maggioranza della sinistra però è con lui, mentre ai cori fuori della vecchia stazione di Firenze contro la minoranza Dem il premier risponde così. Noi non cacciamo nessuno, Boni, noi non cacciamo nessuno. Diciamo che il nostro obiettivo non è andare contro qualcuno, il nostro obiettivo è fare una battaglia nell'interesse dei nostri figli, e pensiamo che una parte dei dirigenti del passato si sia occupata molto di se stessa e delle proprie poltrone e non abbia pensato ai nostri figli e ai nostri nipoti. Ma l'ex segretario Pierluigi Bersani contrattacca: gravissima responsabilità aver portato il paese e la sinistra a questo grado di divisione. E sulla Leopolda risponde così. Quindi io direi ai leopoldini, risparmiate il fiato, stanno già andando fuori. Io quelli lì gli dico dentro, ma se il segretario gli dice fuori, bisognerà rassegnarsi, vuol dire che avrà ragione chi va. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E dalla politica italiana a quella americana, meno di 24 ore dall'apertura delle urne negli Stati Uniti, la media dei sondaggi conferma il rimbalzo di Hillary Clinton, che secondo il sito specializzato Real Clear Politics è ora avanti di 2,5 punti, 46,8% contro il 44,3% di Donald Trump. La candidata però non ha ancora raggiunto il magic number, cioè il magico numero dei 270 grandi elettori che sono necessari per vincere, per conquistare la Casa Bianca. Anzi, quelli sicuri scendono a 203 per quanto riguarda Hillary Clinton. Tra poco però, come vi dicevo, ci collegheremo con gli Stati Uniti per sentire il clima, per sentire le ultime dichiarazioni, gli ultimi sondaggi e magari anche cercare di capire il complesso sistema elettorale americano. E vi ricordo ancora una volta che Radio 24 domani farà una non stop a partire dalle 21 con effetto notte per 3 ore, effetto notte speciale, e poi la diretta non stop fino a quando si avrà questo nome, benedetto nome del nuovo presidente o della nuova presidente degli Stati Uniti. L'Iraq, le milizie curde irachene hanno sferrato un'offensiva per strappare all'ISIS la città di Bashika, a 300 km da Mosul. Ad Ammam Alil le forze governative hanno trovato nel frattempo una fossa comune con circa 100 cadaveri decapitati. Intanto i miliziani jihadisti hanno appiccato il fuoco a 19 campi petroliferi, sprigionando una vasta nube tossica. Più tardi ci collegheremo con l'inviato del Sole 24 Ore che oggi ha raggiunto la città di Mosul. Sulle notizie italiane adesso con il terremoto, una scossa di magnitudo 4 è stata registrata nella provincia di Macerata alle 19.56, quindi poco più di un'ora fa. È stato localizzato nella sala sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a Roma ed è avvenuto ad una profondità di 13 chilometri. E oggi i sindaci del terremoto sono stati ricevuti alla Camera per un incontro istituzionale. Hanno lanciato il loro appello dicendo alle istituzioni: non ci abbandonate, rassicurati dalla Presidente della Camera Boldrini e dal Ministro Alfano, che gli hanno detto: non lasceremo sole le persone colpite. E più tardi ci torneremo qui effetto notte. Lazio invece, nel Lazio si contano i danni per il maltempo di ieri. A Roma è ancora allerta maltempo. Il giorno dopo la tromba d'aria che ha flagellato la zona nord della città, causando anche due morti, uno alla Dispoli e l'altro a Cesano, il Campidoglio valuta se chiedere lo stato di calamità naturale, come annunciato dal comune di La Dispoli. Nella capitale al momento si contano i danni tra alberi caduti e macchine distrutte, come spiega il vice sindaco Daniele Frongia. Siamo ancora in una fase di emergenza, non sono passate nemmeno 24 ore, per il momento stiamo dando aiuto a chi ne ha bisogno e stiamo facendo delle opportune verifiche, dopodiché faremo le nostre valutazioni. Allagamenti e traffico in tilt hanno complicato la giornata a Roma, dove molte strade sono fuori uso anche per le foglie che tappano i tombini. Tutta colpa della mancata manutenzione, accusa il ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti. Critiche contro la sindaca pentastellata Virginia Raggi, rispedite al mittente dai deputati del Movimento 5 Stelle della Commissione Ambiente. C'è un paese sott'acqua, replicano, e i tweet del governo, che tornano ogni anno, non sono ancora diventati cantieri, fondi stanziati e opere per la messa in sicurezza del territorio. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 ore Roma. C'è una notizia che riguarda Veneto Banca. Beniamino Anselmi si è dimesso dalla presidenza, assume le sue funzioni con decorrenza immediata il vicepresidente Maurizio Lauri. Anselmi, che ha lasciato anche il consiglio d'amministrazione della controllata banca Intermobiliare, manterrà l'incarico di consigliere di Veneto Banca. Questo si legge in una nota. La cronaca adesso: la Guardia di Finanza di Milano ha sequestrato l'abitazione milanese di Fabrizio Corona. Il provvedimento nell'ambito dell'inchiesta nei confronti dell'ex agente dei paparazzi per intestazione fittizia di beni e frode fiscale. E vi ricordiamo che al momento Corona è nuovamente in carcere. E sempre per la cronaca, non ce l'ha fatta Pierino Franchi, l'anziano picchiato brutalmente in strada a Roma mentre era andato a buttare la spazzatura, è morto in ospedale dopo 15 giorni d'agonia. L'uomo, un settantenne, era stato soccorso la notte tra il 21 e il 22 ottobre in zona Vigne Nuove, era riverso sull'asfalto, privo di sensi, sporco di sangue, col volto irriconoscibile per le botte. Le sue condizioni erano apparse subito molto gravi e si aggrava così la posizione di Daniel Giannelli, il 24enne appassionato di pugilato, arrestato poco dopo il fatto dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio. A quanto ricostruito dagli investigatori, il ragazzo, già conosciuto dalle forze dell'ordine, quella sera era sotto l'effetto dell'alcol e sarebbe bastato uno scambio di battute per far scattare il pestaggio. A Firenze un'auto finisce su un papà in bici con il figlio e, secondo i dati dell'ACI, tornano ad aumentare i morti per incidenti stradali. 3.400 morti nel 2015, l'1,4% in più rispetto al 2014, secondo dati ACI-ISTAT, che registrano anche un aumento dei feriti gravi per incidenti stradali, quasi 16.000 contro i 15.000 del 2014. L'Istituto Nazionale di Statistica sottolinea come sia rilevante l'incremento della mortalità nei grandi comuni, constatando l'aumento di vittime tra i motociclisti e i pedoni. Guida distratta, velocità elevata e mancato rispetto della distanza di sicurezza, i comportamenti sbagliati più frequenti, anche l'uso del telefono cellulare alla guida, invece tra le violazioni al codice della strada più sanzionate. E se i numeri preoccupano, la cronaca purtroppo conferma il trend. Solo ieri due vittime in Friuli in uno scontro tra tre auto, oggi in pieno centro a Firenze, otto feriti, tra cui un bambino di 20 mesi ed il padre ricoverato in gravi condizioni. Su di loro è piombata un'auto a velocità elevata. Alla guida, un 75enne finito pure lui in ospedale, ha riferito che gli si era incastrato il piede tra i pedali. Annalita Lambrosio, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E adesso una sentenza che sarà un importante precedente. Probabilmente il Tribunale di Roma, con un verdetto innovativo reso noto dal sito cassazione.net, ha deciso per l'affido condiviso di Spot, che è un cagnolino di 9 anni conteso da due ex conviventi residenti nella capitale arrivati alle vie legali per separarsi. Per decisione del giudice monocranico, adesso il cane, un meticcio trovatello, vivrà 6 mesi con l'uno, 6 mesi con l'altra, con facoltà per la parte che dei 6 mesi non lo avrà con sé di vederlo e tenerlo 2 giorni la settimana, anche continuativi, notte compresa. Quindi un affidamento praticamente per i cani in caso di separazione, come già accade per i figli minori. I giudici hanno fatto notare che nel nostro ordinamento manca una norma di riferimento che disciplini l'affidamento di un animale domestico in caso di separazione, che però è un disegno di legge che in Parlamento giace da anni. Per chiudere, lo sport. Manca solo l'ufficialità ormai alla designazione di Stefano Pioli come nuovo allenatore dell'Inter. Oggi i legali dell'ex tecnico laziale hanno incontrato a Milano i vertici del club nero-azzurro per definire i dettagli del contratto. E poi il tennis, con il fine settimana appena concluso, che ha rivoluzionato la classifica mondiale maschile. I've been close a number of times before I actually did it, whereas this sort of came around Sembra incredulo anche lui, Andy Murray, nel ritrovarsi nuovo numero uno del tennis mondiale. Non che i suoi meriti siano in discussione. Solo nell'ultimo anno, vittoria a Wimbledon, oro olimpico, finale in Australia a Roland Garros, fino al successo a Parigi-Bercy di domenica. Ma certo, il weekend appena passato ha sancito una svolta nella storia del tennis contemporaneo. Novak Djokovic disarcionato dal vertice della classifica. Sua maestà Roger Federer addirittura fuori dai primi dieci. Non accadeva dal luglio 2002, quando il fenomenale svizzero era agli albori di una carriera che finora gli ha regalato 17 titoli dello Slam. Vero che a farlo precipitare in graduatoria è il lungo stop che a 35 anni si è imposto per preservare le preziose ginocchia, ma certo vederlo laggiù al sedicesimo posto fa una certa impressione. Anche ai suoi rivali, per la verità, perché da gennaio il divino Roger tornerà in campo e, complice la bassa classifica, incrocerà i più forti già nei primi turni dei tornei. E se per lui è una brutta notizia, figurarsi per chi dovrà affrontarlo. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E con questo direi che abbiamo concluso il riassunto della giornata. Avete il quadro adesso preciso delle notizie più importanti. Come avete sentito, la voce da venerdì non è migliorata per niente, però resisteremo per un'ora come sempre dalle 21 alle 22, lo sapete, per essere aggiornati su tutte le notizie importanti e per avere poi gli approfondimenti, in particolare su alcuni temi, dopo le 21:15. Quindi tra pochissimo, dopo la viabilità, cominceremo a parlare di queste pochissime ore che mancano alle elezioni americane e poi gli altri temi. Per i vostri commenti, vi dicevo come sempre la pagina Facebook di Effetto Notte oppure il numero per messaggi WhatsApp che è 349-238-6666. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Notizie che vi ho raccontato, le più importanti della giornata con i vari servizi, e quindi avete adesso ben presente quali sono i fatti in questo giorno che si sta chiudendo, e cominciamo adesso ad approfondirne alcuni con gli ospiti e poi i vostri messaggi al 349-238-6666. Già vedo gli schieramenti con Hillary e Trump, e domani poi vi ricordo ci saranno anche le telefonate in diretta per questa puntata di 3 ore di Effetto Notte, la diretta poi non stop che continua ad andare avanti di Radio 24 fino a che ci sarà il nome ufficiale del vincitore della Casa Bianca. Vi dicevo quindi pagina Facebook di Effetto Notte per i vostri messaggi oppure 349-238-6666 il numero per SMS e WhatsApp. Addirittura un ascoltatore ricorda che domani il compleanno di Alain Delon compie 80 anni, mito di sempre, vabbè, possiamo fare direttamente domani senza anticipare. Oggi le notizie sono altre e ve le ricordo velocemente. Continua lo scontro tra Unione Europea e Italia. Il presidente della Commissione Europea Juncker dice ci attaccano ma io me ne frego, e poi la replica di Renzi difenderò le scuole, mentre il commissario economico Moscovici, commissario europeo, frena, e Gentiloni, ministro degli esteri italiano, Juncker non superi i limiti a proposito del io me ne frego. L'America al voto, Clinton avanti ma Trump non molla, tutto si gioca in 15 stati, rush finale sugli indecisi. Lite nel PD, Renzi dice la minoranza, io non caccio nessuno, Bersani però sottolinea è gravissimo dividere, e Roberto Speranza chiude a una possibile intesa sull'Italicum. Alla Camera oggi i sindaci del terremoto lanciano l'appello non ci abbandonate, Boldrini e Alfano le rassicurano e dicono non lasceremo sole le persone colpite. Allerta maltempo a Roma e polemica tra il ministro Galletti e il Campidoglio. Galletti dice mancata manutenzione della città, questa è la causa, e dal Campidoglio dicono è vero, è da 20 anni che è così. Nuovi guai per Fabrizio Corona, sequestrata la casa di Milano, vale 2,5 milioni. E poi l'offensiva dei curdi a nord-est di Mosul in Iraq, e trovati in un campo 100 corpi, in una fossa comune 100 corpi decapitati. E poi per quanto riguarda il calcio, Pioli è a un passo dall'Inter. Oggi quindi la vigilia del fatidico appuntamento per gli Stati Uniti, in realtà un appuntamento fatidico un po' per tutto il mondo, essendo gli Stati Uniti comunque continua a essere lo stato più potente del globo. Entro domani sera oltre 130 milioni di cittadini americani saranno andati a votare per il prossimo presidente degli Stati Uniti, scegliendo tra la democratica Hillary Clinton e il repubblicano Donald Trump, e anche per gli altri minori di cui però praticamente non si parla perché diciamo i fari sono da tempo puntati sui due grossi personaggi. personaggi. De Blasio, sindaco di New York, ha detto che è stata rafforzata la presenza della polizia. Sapete, è un momento delicato, in più si parlava anche di rischio attentati. Ma ci colleghiamo subito con Marco Valsania, corrispondente del Sole 24 Ore da New York. Ciao caro Marco. Salve, ciao, come va? Insomma, la mia bronchite non è cambiata. Tu come stai invece? Lì ci sarà grande fibrillazione? C'è in effetti abbastanza suspense e fibrillazione, si potrebbe dire, in attesa della giornata, alla fine, la grande giornata di domani, che è quella che dovrebbe decidere chi sarà il prossimo presidente degli Stati Uniti. Per gli ultimi sondaggi, Marco, a parte che lì vanno avanti fino all'ultimo i sondaggi, non c'è un momento di silenzio elettorale, i comizi ancora vanno avanti, no? Rispetto all'Italia, un po' diverso anche questo. Sì, sostanzialmente continuano a fare campagna elettorale ancora tutt'oggi negli stati, come ricordavi tu, gli stati incerti, gli stati decisivi, dalla Pennsylvania al Michigan, alla Florida, al New Hampshire, così un rush finale che dimostra proprio un po' la posta in gioco, l'incertezza dei sondaggi della vigilia e quindi del risultato in questo duello un po' all'ultimo voto tra Hillary Clinton e Donald Trump. Le ultime dichiarazioni dei candidati quali sono, se dovessi dire proprio le ultime frasi che ti hanno colpito sia di Hillary Clinton che di Donald Trump? Ma i toni sono abbastanza rauchi, nel senso anche letterale del termine, se tu hai la bronchite anche loro non scherzano a forza punto. Di parlare di far comizi loro. Esatto. E sostanzialmente a questo punto sono appelli al voto, appelli accorati alla propria base per mobilitarsi, per andare a votare. In alcuni stati c'è stato il fenomeno del voto anticipato, cioè gli elettori hanno potuto già andare ai seggi se volevano, ma in altri stati no, quindi diciamo tutto dipende dalla giornata di domani, da quanti e quali elettori si recheranno davvero alle urne. Quindi queste ultime ore della campagna elettorale sono proprio spese dai candidati, dai loro così stretti collaboratori, alleati, surrogati, come si dice, supplenti, per invitare, per mobilitare la propria base e gli eventuali incerti ad andare a votare. Quindi sono messaggi abbastanza ripetitivi, un po' martellanti, ma con un obiettivo chiaro, quello di cercare di spostare questo equilibrio abbastanza incerto a favore dell'uno dell'altro. Ecco, un equilibrio che, come dicevi tu, in questo momento alla vigilia sembra confermare un vantaggio per quanto risicato di Hillary Clinton, ma con un Trump che assolutamente non si dà per non molla, come dicevamo. Anche se, Marco, devo dire, un'agenzia di poco fa, secondo la quale sono circa 24 milioni le persone che hanno espresso già la loro preferenza col voto anticipato prima, e questo potrebbe essere a svantaggio di Hillary Clinton, prima che il capo dell'FBI Comey annunciasse ieri l'irrilevanza delle nuove mail collegate a Hillary Clinton. Sì, diciamo, è possibile. L'altro elemento però sul voto anticipato è che in molti stati è stato un voto diciamo mobilitato dai democratici, no? Quindi un voto, diciamo, per esempio il voto ispanico è stato tra i più sensibili al voto anticipato, e il voto ispanico è in massima parte un voto per Hillary Clinton. Comunque, o anti-Trump. Diciamo, proprio per i toni xenofobi della sua campagna elettorale. Senti, quindi, Marco, se dovessimo, diciamo, rimane da vedere se, dovessi spiegare in modo schematico e molto semplice, poi domani ci ritorneremo, qual è il sistema elettorale americano. Si parla di grandi elettori, quindi di non ci sono diciamo, non è il popolo, i cittadini che votano direttamente. Come funziona, se lo puoi spiegare in modo chiaro? Sì, cercando proprio di renderlo in una battuta, ecco, consideriamo i grandi elettori come fossero dei punti, per cui a ogni stato corrisponde un certo numero di punti per conquistare la Casa Bianca. A seconda della grandezza della popolazione dello Stato, uno Stato ha assegnato un certo numero di punti, per cui il maggior numero di punti ce l'ha la California, che ne ha 55, poi viene il Texas, che ne ha 38, poi viene la Florida e New York, che ne hanno 29, e così via. Ecco. Il numero totale di questi grandi elettori è di oltre grandi elettori o punti, come li abbiamo chiamati, è di oltre 500. Ecco, sono 538, no? Sono 538. Esatto, la soglia minima di punti è 270. Chi arriva a 270 grandi elettori, cioè punti, ha vinto la Casa Bianca e può arrivare con diverse combinazioni di stati. Quindi facciamo un caso della California, no, Marco? Ecco, in California votano i cittadini, però dipende anche da quanti sono i grandi elettori in California. Certo, sono 55. Ecco, i grandi elettori in massima parte, in quasi tutti gli stati tranne due, vengono interamente assegnati al vincitore, per cui chiunque vinca di poco o di tanto la California non vengono assegnati in modo proporzionale, ma vengono assegnati in modo, diciamo, in assoluto, in toto, a chi vince lo Stato. Quindi se anche uno dei due vince di un solo voto, si prende tutti i 55 punti, diciamo, grandi elettori della California. Gli unici due stati che fanno eccezione sono il Maine e il Nebraska, per cui insomma due stati molto minori dove i grandi elettori vengono decisi per circoscrizione elettorale, quindi è possibile che uno venga vinto da uno e uno da un altro, ecco, ma sono appunto stati minori che di solito non hanno nessuna influenza sul risultato. Per cui per questo che può accadere il paradosso che uno vinca il voto popolare ma perda le elezioni alla Casa Bianca, perché appunto se vinci anche di poco in uno stato con molti grandi elettori, prendi tutti. Esatto, se invece vinci di molto un altro stato, vinci sempre quel numero di grandi elettori che appartengono a quello stato, quindi diciamo non c'è relazione stretta fra il numero di voti popolari e il numero di grandi elettori che è. E così funziona negli Stati Uniti. Domani quindi, anche con Marco Valsania, diretta non stop sull'elezione presidenziale, che lo potete perdere nel modo più assoluto. Grazie Marco Valsania da New York. A voi. Ora invece ci spostiamo, focalizziamo sulla situazione in Iraq, più precisamente a Mosul, che è la roccaforte dell'ISIS in Iraq. Da diverse settimane l'esercito iracheno, più i combattenti e le combattenti curde, perché ci sono anche molte donne nelle file dei combattenti curdi, insieme alle truppe americane, stanno sferrando vari attacchi per sconfiggere definitivamente il sedicente Stato Islamico in Iraq. E anche voi stessi lo sentite da diverse settimane che si dice attacco finale a Mosul, però questo attacco finale ancora non arriva. E poi c'è la grande emergenza civili a Mosul è stata raggiunta, la città di Mosul, dall'inviato speciale del Sole 24 Ore, Alberto Negri. Ciao Alberto. Buonasera a tutti voi. Alberto, tra l'altro oggi è stata trovata questa fossa comune con 100 cadaveri decapitati, ma purtroppo è la punta dell'iceberg, no? Abbastanza di routine, purtroppo. Guarda, io ho visto uscire da Mamma lì e proprio gli scudi umani che erano stati tenuti lì dal califfato e che sono stati liberati, sono avanzati fuori da questo sobborgo di Mosul, quasi incolonnati, marciavano uno accanto all'altro, sembravano quasi il popolo dei braccianti del quadro di Pelizza da Volpedo del Quarto Stato, che credo tutti in qualche modo ricordano o conoscano. E devo dire che la linea del fronte è veramente infuocata. Prima di tutto a combattere lì e soprattutto l'esercito iracheno, questa Golden Division, la divisione d'oro, le truppe d'élite sostenute dagli americani, con la retrovia appoggiata dai peshmerga curdi, e stanno combattendo una battaglia durissima, perché è una battaglia strada per strada. Io mi trovavo sulla riva orientale del Tigri, dove finora sono arrivate le truppe anti-califfato, anti-ISIS, e posso dire che a 300-400 metri piovevano i colpi di mortaio da tutte le parti, perché ci sono sniper, cecchini ovunque. È un fronte molto mobile, è una resistenza accanita quella che sta opponendo l'ISIS, anche se oggi è caduta la città di Vashika, che è a 13 chilometri da Mosul, un'altra roccaforte ISIS che è stata conquistata. Ma prima di conquistare, di far cadere tutta questa città, è una città di quasi 2 milioni di abitanti, ci sarà ancora molto, molto da penare. Del resto, sentivo prima che si parlava di elezioni americane, quello che sta succedendo qui, tra queste pianure sassose, quasi desertiche, con colori molto pallidi, tra il grigio e il rosa, insomma, questo sarà anche l'eredità che avrà il prossimo presidente americano. Perché qui gli americani sono qui per non andarsene, dall'altra parte in Russia c'è la Siria e intorno ci sono tutte le potenze regionali che in qualche modo vogliono mettere la loro piede qua dentro e decidere quale sarà il futuro non solo del Mosul e dell'Iraq, ma anche della Siria e dell'intero Medio Oriente. È detto benissimo, Alberto Negri, è collegato giustamente gli Stati Uniti e le elezioni del presidente, perché sono tutte cose appunto ormai collegate, visto che gli Stati Uniti sono così presenti. Alberto, secondo te, quindi dicevi, ci vorrà ancora moltissimo per riuscire, no? Sì, i titoli sono quelli spesso delle agenzie, attacco finale su Mosul, però evidentemente di tempo ce ne vorrà ancora. Sì, forse siamo anche noi giornalisti, che cerchiamo in qualche modo di premere perché questa città cada, anche perché siamo qui da parecchio, tutti insomma stiamo aspettando questo evento, però d'altra parte sappiamo molto bene che, come ci diceva il capo della sicurezza nazionale curda di Peshmerga, che è tra l'altro uno dei figli di Masud Barzani, Masrur Barzani, dice: non crediate che la caduta di Mosul sia la fine della storia del califfato. Il califfato sopravviverà anche ideologicamente, anche perché le ragioni che hanno portato alla nascita di questo califfato ci sono ancora tutte sul campo, e anche quell'offensiva in Siria partita adesso, o perlomeno annunciata, su Raqqa ci vorrà molto tempo. Le truppe curde che hanno annunciato questa offensiva si trovano ad almeno 50 km dalla città, quindi immaginate voi che ci vorrà ancora molto tempo perché prima che l'ISIS cada, e soprattutto ci vorrà molto tempo per definire politicamente quello che accadrà qui. Intorno a Mosul ci sono le truppe irachene che stanno combattendo in città, i peshmerga curdi che sono alleati con gli iracheni, però ci sono anche le truppe turche a meno di 20 km da città che hanno destato le loro milizie, e poi ci sono ancora le milizie sciite filo-iraniane a Tal Afar. Insomma, è chiaro che questa battaglia di Mosul e dell'Iraq ha come protagonisti anche la Turchia, l'Iran, alle potenze regionali, e ognuno cerca in qualche modo, come dire, di decidere il destino di un popolo, quello iracheno, che ha già sofferto, che diciamocelo pure, da 35 anni è fatto da scudi umani. Negli anni 80, 8 anni di guerra con 1 milione di morti contro l'Iran, poi ci fu la guerra del 91 e poi c'è stata quella del 2003. E insomma, questo popolo ha avuto tante vittime e pochissime speranze. Paese travagliatissimo. Grazie Alberto Negri dall'Iraq. Ciao Alberto, buon lavoro, stai attento. E noi grazie adesso ci... Ciao Alberto, ci prendiamo questa piccola pausa, voi continuate. Intanto ringrazio Max, che addirittura ha fatto una poesia sulla mia bronchite, e poi anche Francesco lo ringrazio. 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte per le vostre osservazioni, le vostre domande, le vostre opinioni. Ci sentiamo tra pochissimo. Tecnologia e logistica di magazzino Modul Block. Avanti anni luce. Vi presenta. Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice, Roberta Giordano, con voi. Qualcuno ha un'ottima memoria, perché dice: ciao, ma ogni anno prendi la bronchite. Devo dire, ogni anno puntualmente, ognuno ha i propri punti deboli, anche più volte all'anno, purtroppo. Adesso torniamo sulle notizie, tra poco vi ricordo le più importanti, se non avete acceso la radio puntualmente alle 21. Abbiamo parlato ampiamente alla vigilia delle elezioni americane, di questa rush finale, e domani vi ricordo ancora una volta ci sarà una non stop, una lunga non stop di Radio 24 sulle presidenziali americane, a cominciare dalle 21 con una puntata speciale di Effetto Notte di 3 ore, poi avanti fino a quando si saprà il nome di chi ha conquistato la Casa Bianca. Per i vostri messaggi sempre due modi di interagire: pagina Facebook di Effetto Notte oppure il numero 349-238-6666. Tra poco passeremo a un altro tema, intanto vi ricordo le notizie più importanti. Le tensioni tra Unione Europea e Italia. Juncker avverte Renzi: l'Italia attacca l'Unione Europea, ma ha torto, e questo non produrrà i risultati previsti. E poi la replica di Renzi: le regole non possono andare contro la stabilità delle scuole dei nostri figli. Presidenziali americani, alla vigilia delle elezioni Hillary Clinton avanti nei sondaggi, ma la quota dei 270 grandi elettori è ancora lontana. Politica italiana: dopo la Leopolda prosegue lo scontro nel PD, Renzi alla minoranza dice: io non caccio nessuno, Bersani sottolinea: è gravissimo dividere, e Roberto Speranza chiude all'intesa sull'Italicum. Iraq, offensiva dei curdi a nord-est di Mosul contro l'ISIS. Ad Hammam al-Lil le forze governative hanno trovato una fossa comune con circa 100 cadaveri decapitati. I sindaci del terremoto alla Camera: non ci abbandonate, il loro appello, li sentiremo tra pochissimo. E poi la polemica dopo il maltempo a Roma, botta e risposta tra il ministro Galletti e il Campidoglio, colpa della mancata manutenzione della città, accusa il ministro, è vero, è così da 20 anni, replica la giunta Raggi. E poi coppie separate, animali domestici, in caso di separazione affidamento condiviso del cane come per i figli minori, questo lo ha stabilito il Tribunale di Roma. Torniamo a parlare di terremoto, naturalmente ne parliamo praticamente tutti i giorni. Fra l'altro c'è stata una scossa alle 19.56 di magnitudo 4 nella zona di Macerata, quindi le scosse continuano, e questo terremoto terribile, più terremoti anzi, che hanno colpito il centro Italia a partire dallo scorso agosto. I sindaci di quelle zone lanciano un appello alle istituzioni per non essere dimenticate, almeno in questa prima fase. L'occasione è stata quella del secondo incontro istituzionale organizzato insieme all'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, alla Camera, e che ha visto la presenza di oltre 600 primi cittadini. L'angoscia dei territori l'ha espressa il sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, che ha confessato nel suo intervento di percepire un certo senso di abbandono. Sentiamolo. Non si capisce chi deve fare cosa e come lo deve fare. E allora io ho la sensazione che forse qualcuno ci sta abbandonando. Ma io sono sicuro che non sarà così. Altrimenti questi borghi non torneranno più a vivere, non saranno più un borgo più bello d'Italia, non saranno il paese da cartolina, perché noi non vogliamo essere solo un paese da cartolina, ma un paese dove vivere per 365 giorni l'anno. E a questo, diciamo, questa grossa preoccupazione è arrivata la risposta della Presidente della Camera Boldrini e del Ministro Alfano, che hanno detto: no, non vi preoccupate, i riflettori saranno sempre puntati su questa emergenza, confermiamo il nostro impegno, non vi lasceremo soli. E tra i sindaci c'era anche Aleandro Petrucci, sindaco di Arquata del Tronto, che è in collegamento. Lo ringrazio per la disponibilità. Buonasera, sindaco. Buonasera a voi. Sindaco, anche lei ha avuto questa sensazione di essere abbandonati, del fatto che magari i riflettori si sono più puntati sulle ultime scosse, sulle zone colpite a ottobre, oltre a quelle anziché ad agosto, e questa è un po' la sensazione che avete? In effetti sì, abbiamo la sensazione di essere trascurati, ma non tanto dalle istituzioni quanto dai media. Adesso i fari sono tutti puntati sulle nuovi paesi che hanno avuto il terremoto, ma noi questo terremoto ce l'abbiamo avuto in più, insomma, no? Oltre quello del 24 agosto abbiamo subito quello di ottobre, e subiamo ancora oggi tutte le scosse che ci hanno loro, vengono anche nei nostri borghi. Tant'è vero che il mio comune non ha più un abitante, ho dovuto trasferirli tutti nella zona Riviera. Non c'è più nessuno, io avevo 14 borghi, è rimasto vuoto, c'è l'esercito che presiede, non far entrare i sciagalli, però ecco, non c'è più un abitante, questo è il senso della nostra frustrazione, chiamiamola un po' così, insomma. Ci sentiamo, perché noi abbiamo vissuto 2-3 terremoti di continuo, cioè gli attuali terremoti a noi ci distano 2 chilometri, insomma, il cratere in linea d'aria, quindi li subiamo continuamente, tant'è vero che le case in pratica non ci sono più. Quindi un infierire costante delle scosse. Però Petrucci le diceva non tanto le istituzioni quanto dai media, e questo può essere una cosa colpevole, però l'importante è che vi stia accanto chi vi può davvero aiutare. Sì, sono accanto, anche se noi comprendiamo che una parte del personale che ci dava sostegno si è dovuto spostare anche in altre zone. Cosa si è spostato. È chiaro che vanno nei paesi dove c'è emergenza, e magari che crollano attualmente. Noi ormai ce l'abbiamo crollati, però ecco, riniziare da capo le nostre montagne spopolate e portare un montanaro al mare, non pensate che è una cosa che ci sta facilmente. Già non ci sta d'estate, ci potrà andare una settimana, ma di questi tempi con la pioggia, sapendo che su ancora a qualche po' di bestiame, anche se relativo, perché poi quelli che hanno grossi mandrie sono rimasti sul posto a vigilare. Petrucci, ma se lei oggi comunque era lì, era presente, ha sentito Alfano, l'avete incontrato forse anche poi nel tardo pomeriggio, cioè che risposte vi sono arrivate concrete, che voi ritenete concrete? Chiaramente non poteva non dirci che non ci abbandonano, insomma, ci mancherebbe pure questo, però ecco, noi soprattutto quelli che hanno avuto dei morti, insomma, vorremmo così un tantino che magari se ne parlasse un po' di più, insomma, ecco tutto qua. No, ma se ne parlasse, si agisse, si sta agendo, sa, però con le intemperie, eccetera, le casette quando arrivano non ci hanno fatto uscire le casette, non i moduli. Quindi voi dalle tende noi vogliamo le casette. Ecco, questa è la vostra richiesta concreta. Vorreste queste casette. Che tempi vi hanno dato per chiudere, Sindaco Petrucci? Noi ci hanno dato primavera. Però ci rendiamo conto che se le opere di urbanizzazione con la burocrazia non vanno avanti, le casette noi ce le scordiamo per marzo, aprile, maggio. Questo è il punto. E la gente, la nostra gente, non resiste a stare fuori di casa tutti questi mesi. Questo è il punto. Perché poi, secondo me, non ci saranno più case abitabili dove ci troviamo noi. È stato chiarissimo, Petrucci. Noi non ci dimenticheremo certamente, e nessuno si deve dimenticare, in particolare appunto le istituzioni. Sentivo oggi Cantone, il capo dell'anticorruzione, che diceva dobbiamo velocizzare, però l'importante è non abbassare il livello di legalità, sa, quando ci sono le emergenze. Noi, no? È vero, questo è, lo diciamo per prima noi piccoli sindaci, perché noi siamo rimasti piccoli proprio perché la nostra onestà è una cosa. A me magari ci vengono magistrati, eccetera, solo che bisogna correre. Certo. E quindi lo Stato ci deve dare una mano, e soprattutto le persone, perché io ho un geometra, non posso fare le pratiche con un geometra. Ho chiesto ingegneri, altri tecnici che mi arrivano una settimana e poi cambio, una settimana uguale, ci vogliono fissa almeno per sei mesi. Gli stessi, questo abbiamo chiesto. Chiarissimo, Sindaco Petrucci, speriamo che questo ulteriore appello riconfermato anche qui attraverso il microfono di Radio 24 sia poi accolto in modo concreto e anche dalle istituzioni, come oggi vi hanno assicurato. Grazie, Sindaco Leandro Petrucci, grazie di Arquata. Grazie a voi, arrivederci. Grazie, un abbraccio. Viabilità. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Notizie che vi ricordo velocemente, sempre Roberta Giordano con voi. Lo scontro tra Unione Europea e Italia con il Presidente della Commissione Europea Juncker, che dice ci attaccano dall'Italia ma io me ne frego, la replica di Renzi è difenderò le scuole, mentre il commissario Moscovici cerca un po' di frenare e il ministro degli esteri Gentiloni dice Juncker non superi i limiti con il linguaggio in particolare. Poi l'America al voto, Clinton avanti ma Trump non molla, tutto si gioca in 15 stati, rush finale sugli indecisi. E poi la lite nel PD, Renzi alla minoranza dice io non caccio nessuno. Uno, ma Bersani dice è gravissimo dividere. Queste le notizie più importanti, ancora i vostri messaggi, ringrazio anche Fabio per i consigli. Giulio dice francamente trovo curioso che il primo presidente donna americano che passerà alla storia sarà presidente col cognome del marito, e sul marito in quanto tale stendiamo un velo di pietosa commiserazione. Però Giulio, ti assicuro che negli Stati Uniti è stato amatissimo Bill Clinton, poi ognuno può vederla come vuole. Adesso l'appuntamento con l'Europa, parliamo di ricerca scientifica faccia a faccia tra Europa e America. U-Zone, incontro con gli europarlamentari. Bentrovati agli ascoltatori di Radio 24 da Silvia Bernardi. Oggi facciamo un faccia a faccia Europa-America sul fronte della ricerca scientifica. L'Europa produce un terzo delle conoscenze scientifiche sviluppate a livello mondiale ed occupa una posizione di primo piano in ambiti quali la ricerca medica e la chimica. In campo tecnologico vanta importanti successi in settori quali l'aeronautica e le telecomunicazioni. Tuttavia si parla di paradosso europeo perché l'Europa, pur essendo prima nella produzione di pubblicazioni scientifiche rispetto agli Stati Uniti, è all'ultimo posto per numero di brevetti depositati. La vera debolezza europea risiede quindi nell'insufficiente capacità di trasformare la conoscenza tecnologica e scientifica in effettive opportunità imprenditoriali. L'Unione Europea dispone pertanto di un potenziale che deve essere tutelato, rafforzato e pienamente sfruttato. Ne parliamo con Anna Tramontano, biochimica, docente dell'Università La Sapienza di Roma e rappresentante del Centro di Ricerca Europeo. Il problema è quello della mobilità, diciamo, delle persone e dei progetti in Europa, perché nonostante se ne parli tanto, poi alla fine ogni paese ha le sue idiosincrasie, la mobilità dei ricercatori da un posto all'altro è complessa, è meno complessa in Europa che se qualcuno che poverino viene fuori dall'Europa, nel qual caso essendo extracomunitario passa attraverso la Bossi-Fini per intendersi. E i piani, diciamo, di sviluppo della carriera dei ricercatori sono abbastanza paese dipendente. Attualmente gli investimenti in attività di ricerca rappresentano mediamente l'1,8% del PIL rispetto al 2,8% degli USA. Nell'ultimo anno gli Stati Uniti hanno speso complessivamente per la ricerca pubblica e privata 60 miliardi di euro in più rispetto all'Europa. Da 10 anni a questa parte la bilancia commerciale dell'Europa presenta ogni anno per i prodotti ad alta tecnologia un deficit di circa 20 miliardi di euro. In termini di posti di lavoro, i ricercatori rappresentano in Europa il 2,5% della forza lavoro occupata nelle imprese, contro il 6,7% negli Stati Uniti. Il numero degli studenti europei che compiono studi di livello universitario negli Stati Uniti è oltre il doppio di quello degli studenti americani che svolgono tali studi in Europa, ed il 50% degli europei che effettuano un dottorato negli Stati Uniti risiedono in tale paese per un lungo periodo, trasferendosi talvolta definitivamente. Il processo di scambio di persone è molto complesso in Europa. È troppo complesso, alcuni titoli sono riconosciuti, altri non sono riconosciuti. Ogni paese ha una metodologia diversa per arruolare dei ricercatori, quindi tutto questo rende, diciamo, abbastanza complesso spostarsi da un paese all'altro, e certamente ritornare poi è anche peggio, diciamo, perché non tutto viene riconosciuto nel modo corretto. Quindi una legislazione per cui il ricercatore italiano e quello svedese possano scambiarsi in maniera semplice renderebbe tutto più facile. Youzone, incontro con gli europarlamentari. In collaborazione con Euronet Plus. E ora vorrei sentire il nostro Paolo Corazzon di Trebi Meteo per capire se questo tempo terribile che c'è stato soprattutto in alcune zone, la tromba d'aria, la Dispoli e tutta la costa tirrenica, insomma, interessata da un tempo piuttosto brutale. Paolo, che cosa nelle prossime ore, che cosa ci aspettiamo? Allora, buonasera Roberta. Allora, guarda, per il nord Italia il peggio è sicuramente passato, nulla da segnalare nei prossimi giorni, se non temperature molto basse al mattino, intorno allo zero nelle regioni settentrionali. Invece, purtroppo, al centro-sud abbiamo ancora 24 ore di maltempo, con ancora delle piogge che potrebbero essere al sud anche abbastanza intense, quindi non siamo ancora proprio fuori da questa fase di maltempo. Da mercoledì il tutto si attenuerà, comunque andremo verso giornate un po' più tranquille, ma guarda, temo però che questo mese di novembre sarà comunque molto movimentato. L'autunno farà davvero la voce grossa. Accidenti, lui che può. Grazie Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ciao Paolo. Buon tempo a tutti. Grazie, buon tempo a te Paolo. E adesso direi che ci dobbiamo lasciare, poi come al solito vi aggiorno brevemente alle 22.